con la quale loro hanno scelto persone che non c'entravano niente, non solo quel numero di ebrei, ma anche che loro consideravano i loro grandi nemici, ma persone normali, quelli che avevano rastrellato, con la stessa efferatezza. Cos'era per loro uccidere 10, 100, 1000, 100.000, 50.000? Noi dimentichiamo, non dobbiamo mai dimenticare chi erano i nazisti. Chi crede che se i partigiani si fossero consegnati non ci sarebbe stata la fucilazione per rappresaglia di 10 per 1? Secondo me, non lo so, sogna. Dimentica che cos'erano i nazisti. Le SS sono le stesse che hanno assassinato milioni di innocenti nei campi di sterminio. Non capisco di cosa si parli io. Mix 24, la storia. Cioè, tutta questa discussione su Via Rasella, sì, secondo me è strumentale. A cosa? È strumentale a cercare di condannare i combattenti partigiani, criminalizzare la resistenza antifascista, criminalizzare quella storia per cercare in qualche modo di restituire verginità invece alla storia del fascismo. È una polemica, a mio parere, totalmente strumentale. E poi l'altra argomentazione: non dovevano fare l'attentato. Ma allora cosa si fa? Si smette di combattere? Allora non si fa la resistenza del tutto, perché comunque i nazisti, appena sapevano che in una zona c'erano dei partigiani, arrivavano e assassinavano tutti gli abitanti di un villaggio, di un paese. Cioè, la natura del nazifascista, che non aveva neanche rispetto per nessuna regola di guerra, infatti sono stati condannati per gli assassini di civili come criminali di guerra. Quindi si può dire, punto, una strage ingiustificata perché le vittime erano innocenti e non combattenti? I nazisti sono stati non combattenti, ma assassini efferati in armi. Poi io non nego che soldati della Wehrmacht abbiano combattuto regolarmente, perché non posso dirla questa cosa, oltretutto non sono un esperto di storia militare, ma il nazismo non aveva lo scopo di una guerra con il rispetto dell'avversario. Guardi, le do un'informazione che le fa capire. Adolf Hitler aveva dato l'ordine di radere al suolo Leningrado e di assassinare tutti i suoi abitanti anche se si fossero arresi. Questo era il nazismo. Chiaro. Allora fare tutte queste argomentazioni, certo che è spaventoso pensare che tu sai che fai un'azione che provocherà una rappresaglia, ma anche perché gli italiani hanno fatto la guerra partigiana, che i nazisti hanno annientato, hanno fatto le stragi a Boves, a Marzabotto e tutto. Allora non si sarebbe dovuto combattere, e allora portando questa logica di passo in passo, bisognava lasciar vincere i nazisti. Lei ha scritto sull'Unità, proprio in merito alla vicenda Priebke, che il principio etico che muove l'ebraismo è la giustizia, non la vendetta, tantomeno l'accanimento. Assolutamente. Ma sì. Può esistere perdono? Senta, la questione del perdono è una questione complessa e anche questa molto strumentalizzata. Allora, prima di tutto il perdono deve essere chiesto, cioè il carnefice chiede perdono. Dopodiché si incammina a mostrare che il suo pentimento è reale, perché se no si possono fare richieste di perdono puramente strumentali, ma il perdono è un cammino che si fa. Le dico il caso, è stato spesso rivolta questa domanda alle madri di Plaza de Mayo, sì, de Mayo, le mamme dei desaparecidos. E io ricordo una mia amica Vera Vigevani, che ha avuto una figlia assassinata dalla giunta militare di Dela, sequestrate e assassinate, che diceva: ma noi veramente nessuno ci ha mai chiesto perdono. Allora, il perdono nell'ebraismo è così: intanto è un cammino che fai tu con la tua coscienza, e ti sentirai perdonato quando hai camminato sufficientemente dentro di te per ricevere il perdono. Ma il perdono come logica per chi ha dato ha dato, ha dato, chi ha avuto ha avuto, ha avuto, è complicità con il crimine, perché prima del perdono bisogna fare la giustizia intanto, non la vendetta, giustizia, mi capisca bene. Le ricordo che nelle beatitudini di Gesù, su 8 beatitudini, che sono un po' i comandamenti specifici del cristiano, 2 sono dedicati alla giustizia. Cioè, bisogna fare giustizia, e dopodiché la questione del perdono è una questione molto complessa che si instaura fra chi ha colpito e chi è stato colpito, non solo, ma non si può perdonare in conto terzi. Rispetto alle fosse ardeatine, quindi un discorso che cosa vuol dire? Si può fare questo discorso? Guardi, io credo, le ripeto, intanto ci sono i parenti di quelle povere vittime. E se qualcuno si sente di aver commesso il crimine, il suo rapporto lo deve stabilire con le vittime. E non essendoci più loro, coi parenti di quelle vittime, ma intanto deve fare un cammino uno che deve essere perdonato. Ma cioè, adesso faccio un piccolo paradosso. Sì. Lei si può immaginare uno che ha assassinato il figlio, un bambino, figlio di un altro, e lei dice: senti, perdonami. E questo che ha avuto assassinato il figlio magari 2 giorni prima, e cosa dovrebbe fare questo qui? Cioè, tutto a taraluce e vino? No, beh, certo. Perdono no. È un cammino che deve fare il criminale. Mostrare che lui ha avuto una trasformazione radicale, profonda, che dentro di sé ha percorso un cammino, che ha accettato la giustizia, ha accettato la condanna, ha espiato la sua colpa e dopodiché va verso il perdono. Se no è una truffa. Dopodiché la vittima, colui che è stato colpito in proprio, può decidere di perdonare. Sta a lui. Per cui giustizia è sempre quello che è stato chiesto dal mondo ebraico rispetto alla grande catastrofe. Giustizia. Infatti c'è stato un processo a Norimberga, con tanto di avvocati, con tanto di guarentigie, per i peggiori, più efferati boia nazisti. Ci sono state condanne capitali alle quali io personalmente ero contrario, ma questo è per tutto un ragionamento molto articolato, perché la morte chiude tutto, invece bisogna lasciare aperte le questioni, non puoi chiudere su queste cose. A quel punto l'assassino che viene condannato a morte, il boia, il nazista o chi più, o il boia di altri stragi e stermini, a quel punto può dichiarare: va bene, mi portate via la vita, cosa volete da me, adesso siamo pari. No, non c'è pari in questo. Il processo, il cammino deve continuare, perché io sono contrario alla pena capitale, questo è un generale. Però di tutti i nazisti processati a Norimberga e anche quelli delle stragi commesse in Italia, si è solo sentita una miserabile litania: obbedivo agli ordini. E questa è la forma di più squallida di infamia: obbedivi agli ordini. Cioè, assassinare bambini sono ordini. In quel caso lei dice non c'è stato pentimento. Ma si figuri, ma non l'abbiamo mai sentito. Il travaglio molto forte è stato partito spesso dalle seconde generazioni, dai figli dei criminali. In Germania è stato fatto un cammino molto complesso, doloroso, ci sono state anche situazioni fortissime. Da questo punto di vista ci sono state situazioni fortissime, sono formate addirittura delle associazioni parenti delle vittime, seconda generazione delle vittime e seconda generazione dei carnefici. Sono dei documentari molto toccanti e sconvolgenti su questo. Ci sono confrontati, c'è stato un travaglio enorme. Ma i criminali nazisti se ne sono andati a ricostruirsi vite in Argentina o nella stessa Germania, finché non hanno cominciato a perseguirli, o dovunque, tranquilli, facevano le loro vite. Come se niente fosse, scattando Mengele, il famoso medico di Auschwitz, che è responsabile dell'assassinio di forse oltre 100.000 esseri umani, è scappato attraverso la Rat Line, la via di fuga aperta dal Vaticano, e per un periodo è stato anche in Italia da qualche parte, dove andava al vespro le sere, dove coltivava i fiori, dopo aver assassinato decine di migliaia di bambini. Allora, qui bisogna stare molto attenti, ma questo vale anche per l'ultimo dei genocidi, quello dei Tutsi, perché dietro a queste cose poi si aprono i negazionismi, si aprono i revisionismi strumentali. Bisogna capire che cosa è stato il fenomeno. Vede, un po' come la questione dell'Ucraina. Ma è possibile che nessuno si sia posto il problema che per molti russi ed ex sovietici vedere inalberare standard nazisti in Ucraina, sa cosa vogliono dire quegli standardi nazisti? I popoli sovietici hanno avuto fra i 20 e i 27 milioni di morti.